9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 28 di ottobre, oggi San Simone e Giuda, auguri a coloro che hanno questi nomi. L'argomento di oggi deriva dalla lettera di impegni, la lettera di intenti inviata dal governo all'esame europeo all'indomani del brindare dei mercati all'accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo per il taglio dei capelli alla Grecia da una parte, per la salva stati e il salvabanche. Abbiamo visto ieri i primi particolari dell'accordo, la moltiplicazione per 4 dei 200-250 miliardi residui dei 400 miliardi di dotazione dell'FSF, che lo fa lievitare intorno ai 1.000 miliardi che non bastano per eventuali aiuti per l'Italia, ma intanto si pongono da una parte i problemi degli accordi tecnici da stendere, se davvero si riuscirà a convincere i cinesi a entrare nel veicolo speciale per alzare di 4 volte la leva finanziaria dell'FSF. Su questo stamattina molti pongono degli interrogativi, molti giornali europei, giornalisti, editorialisti europei di rilievo, per esempio sulla Süddeutsche Zeitung c'è Martin Winter che non è ancora chiaro, scrive, se gli strumenti figli ed eredi di questo accordo europeo saranno sufficienti ad affrontare i problemi per esempio della ricapitalizzazione bancaria da una parte e dall'altra a evitare che schizzino i CDS comunque, visto che c'è un meccanismo volontario di taglio dei capelli del 50% alla Grecia, ma non è ben chiaro quanto l'adesione sia davvero spontanea e se invece non si penserà di farla coatta, anche perché riguarda solo i privati che hanno e le banche che hanno in pancia i titoli greci, mentre invece fa eccezione, il taglio di capelli non si applica ai titoli che sono in pancia alla Banca Centrale Europea e all'FSF. Anche Wolfgang Münchau sul Financial Times e dice che ci sono almeno 2 aspetti principali dell'euroaccordo che non lo farà funzionare secondo lui, perché in ogni caso, oltre alla adesione volontaria, che non è volontaria, al taglio dei capelli del 50% della carta pubblica greca, la tesi che anche a me convince molto è che in ogni caso non basterà tutto questo per ancorare al 120% entro poco tempo il debito pubblico greco, che intanto valeggiava verso quota 170 punti di PIL, e in ogni caso il 120% oltre che irrealistico non sarebbe compatibile con un'economia buttata in deflazione dai compiti resi obbligati dall'Europa. Quindi un po' di scetticismo all'indomani del brindisi dei mercati c'è, ma oggi noi ci occupiamo di Italia perché i quotidiani italiani oggi passano a commentare la lettera di intenti, che è un vero e proprio programma di governo aggiuntivo per 18 mesi. C'è Berlusconi che intanto, mentre sto parlando, sul canale 5 ha rilanciato con molti commenti sui punti della lettera la sua deliberata intenzione di andare avanti per 18 mesi. Berlusconi stamattina ha detto no al voto anticipato, Bossi la pensa come me, no alle larghe intese perché sarebbe paralisi politica. Ha attaccato questa volta in maniera molto dura Lorenzo Binismaghi, il membro italiano del board della BCE, dicendo che Binismaghi ormai crea un vero e proprio incidente con la Francia. Ha aggiunto che il voto nel 2012, l'eventuale voto anticipato, è contro gli interessi dell'Italia. Ha lanciato infine un appello all'opposizione per confrontarsi nel merito dei tanti punti della lettera di intenti inviati all'Europa, dicendo che l'Unione Europea approva il nostro programma per 18 mesi di governo, e ha aggiunto un punto su il tema della nostra trasmissione di oggi. Noi oggi vi abbiamo chiesto e chiediamo ai nostri ospiti di affrontare con chiarezza, con una risposta chiara, se ritenete che dei tanti punti della lettera italiana quello più delicato e che ha immediatamente, come dicevo ieri, facile profeta, fatto avvampare le polemiche, cioè quello che annuncia entro giugno dell'anno prossimo la modifica delle norme sulla licenziabilità nel settore privato per ragioni economiche, quindi licenziamenti collettivi per ridimensionamento del perimetro di azienda o crisi nel settore privato da una parte, e dall'altra annuncia la modifica del sacro tabù fin qui intoccabile del posto fisso a vita nel settore pubblico, perché annuncia la messa in mobilità dei lavoratori del settore pubblico fuori dalla pianta organica e poi la messa in cassa integrazione fino al licenziamento, uscita quindi dal settore pubblico, se ritenete che questi due punti siano due punti comunque utili, necessari, se non imprescindibili al rilancio della crescita. Ieri Confindustria su questo, Emma Marcegaglia degli Stati Uniti, ha detto ok, procediamo, abbattiamo le rigidità. Dall'altra parte però, come era inevitabile, tutti i sindacati, questa volta non c'è distinzione tra i sindacati riformisti, quelli che hanno modificato insieme a Confindustria l'associazione datoriale le norme sulle relazioni industriali in questi anni, anche in polemica dura e in scontro con la CGIL, ma questa volta tutti i sindacati, Raffaele Bonanni della CISL, Luigi Angeletti della UIL, come Susanna Camusso della CGIL e anche la UGL, tutti dicono su questo il governo se lo levi dalla testa, perché è una vera e propria provocazione. Non è sui licenziamenti collettivi per ragioni economiche che c'è il contenzioso nel nostro paese. In effetti, andando a vedere le cifre, ho verificato anch'io che la percentuale di contenzioso di fronte al giudice del lavoro per licenziamenti per ragioni economiche, cioè per ridimensionamenti o crisi aziendali, è assolutamente infinitesima, cioè stiamo parlando di meno di un caso su 10 riguarda questo, mentre il resto riguarda la giusta causa. E di fronte a questo il sindacato dite gravissimo errore, invece di invocare coesione sui tanti punti da attuare di questo programma di 18 mesi, cercate il nemico a sinistra nel sindacato, ma lo avrete. E il punto di fondo è che la debolezza di questa maggioranza, che non c'entra col merito di cui parliamo oggi, ma che è la condizione politica con cui deve fare i conti, anche ieri ha avuto un'altra conferma: il ponte dello Stretto è passato per la 29ª volta in un mese, uno strumento parlamentare dell'opposizione, la maggioranza è andata sotto per la 29ª volta in un mese, mentre un programma così intenso come quello della lettera europea, che solo per esempio per l'apertura e la liberalizzazione di settori come l'acqua, i rifiuti, i servizi di trasporto pubblico locale, le farmacie, ci sono scadenze di 3 mesi in 3 mesi, aggiunto a tutto il resto, è un bel blocco di cose da fare. Chiediamo ai nostri ospiti come la pensano, prima di aprire le telefonate ai nostri ascoltatori. Su questo abbiamo con noi Pietro Ichino, giuslavorista, senatore del PD, componente della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale. Buongiorno senatore professor Ichino. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Maurizio Castro, senatore del PDL, componente della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale per la maggioranza. Buongiorno, senatore Castro. Buongiorno a voi tutti. Allora, Ichino, a suo giudizio questo capitolo lavoro era utile, era imprescindibile, si potrà affrontare senza troppo scontro o ci fa tornare indietro tutte le volte che nella storia qualcuno recente ha provato a toccare questo punto, diciamo, non gli è andata molto bene? Lei che pensa? Ma, in realtà non è così, perché per esempio un anno fa, il 10 novembre del 2010, il Senato ha votato con una larghissima maggioranza, 250 voti favorevoli, solo 24 contrari o astenuti, una mozione che impegnava il governo a diverse misure, tra le quali anche una misura che io considero indispensabile, di fondamentale importanza, cioè una drastica semplificazione del nostro diritto del lavoro, che non significa affatto smantellamento, ma significa renderlo innanzitutto applicabile a tutti, mentre oggi abbiamo quello di cui stiamo parlando, questo articolo 18 si applica a meno di metà dei lavoratori dipendenti italiani, quindi bisogna anche chiarire bene di che cosa stiamo discutendo. Quindi innanzitutto occuparsi anche dell'altra metà, perché se non ce ne occupiamo vuol dire metà del capitale umano italiano e soprattutto le nuove generazioni sulle quali non si investe, perché sul lavoro a termine non si fa formazione, e questo è un primo grosso problema. E poi c'è il secondo grosso problema, cioè che l'articolo 18, cioè la vecchia tecnica protettiva che, ripeto, si applica oggi a meno di metà dei lavoratori italiani, ma anche in quella metà protetta, protegge male, perché sostanzialmente imposta la protezione sull'ingessatura del rapporto di lavoro, che non è la protezione migliore. I lavoratori avrebbero vantaggio dall'avere una piena garanzia economica nel passaggio dall'occupazione che non c'è più alla nuova, e garanzia di investimento sulla loro professionalità non vada dispersa nel passaggio, anzi venga arricchita nel passaggio, e questo darebbe un vantaggio ai lavoratori da una parte, un vantaggio alle imprese dall'altra, perché darebbe loro la possibilità di fare l'aggiustamento degli organici molto più rapidamente, senza i ritardi con cui esso avviene oggi in Italia. Poi consentirebbe a un sistema che uscirà da questa crisi con settori e aziende in crescita e settori e aziende invece in declino o in fase di contrazione, ci consentirebbe di attrezzarci per trasferire i lavoratori dalle seconde alle prime, cosa per cui oggi l'Italia non è attrezzata, per cui spende fiumi di denaro per tenere agganciati i lavoratori alle aziende che non hanno più da valorizzare il loro lavoro, e invece priva di linfa vitale quelle altre. Ora, per questo io ritengo che un intervento sia necessario. Però questo intervento va fatto non in modo improvvisato, innanzitutto perché è una riforma complessa, delicata, che va fatta con molta attenzione, molta preparazione, e in modo non provocatorio. Ora, il annunciare, come ha fatto il governo in questa lettera, che si interverrà sugli licenziamenti, sul tabù dell'articolo 18, senza indicare come, senza indicare a quale modello ci si vuole ispirare in questa modifica, perché ci sono tanti modelli, c'è quello scandinavo, c'è quello statunitense, quello australiano e tanti altri, senza dire se questa modifica riguarderà i nuovi rapporti di lavoro soltanto oppure anche quelli esistenti, perché c'è anche questa opzione importante, cioè dire si parte da qui in avanti a tutti i nuovi rapporti di lavoro, si applica la nuova disciplina in un sistema in cui il turnover sta diventando sempre più rapido. In questo modo nel giro di 6-8 anni avremo il nuovo regime che si applica al 90% dei rapporti di lavoro, senza traumi, senza aver creato ansie e diciamo shock per i lavoratori che oggi godono della vecchia protezione. Ecco, ma tutte queste cose bisogna chiarirle, bisogna anche avere una interlocuzione con l'opposizione. Ma è possibile che, avendo io presentato in Parlamento 2 anni fa con altri 54 senatori un disegno che propone un intervento organico, meditato, bilanciato su queste cose, magari sbagliatissimo, però c'è, e il Senato, come dicevo un anno fa, ne ha dato un giudizio largamente positivo. È possibile che il governo su questo abbia fatto muro, per 3 anni ha detto moratoria legislativa, abbiamo il mercato del lavoro migliore del mondo, non c'è ragione di intervenire su questa materia, poi di colpo nel giro di una notte lancia il sasso, si ha l'impressione più che si aspetti di essere bloccato dalla reazione nervosa dei sindacati che non in realtà esprima una volontà reale di rimboccarsi le maniche e su queste cose lavorare seriamente. Voglio dire, c'è un po' il rischio che questa lettera, che pure ha per altri aspetti, ha dei contenuti a mio avviso apprezzabili, tra l'altro attinti da proposte nostre dell'opposizione in questi ultimi tempi, la spending review, la promozione del lavoro femminile attraverso l'incentivo fiscale, ci sono diversi, dismissione e valorizzazione del patrimonio pubblico male valorizzato, voglio dire, non, è una lettera che per altri aspetti ha dei contenuti apprezzabili, ma rischia di essere ancora una volta l'annuncio, il puro dire in una situazione in cui cioè c'è il programma di governo ma non c'è il governo, non c'è il fare. Ecco, questo è stato un po' il vizio della politica di questo governo fin dall'inizio della legislatura, annunci, poi al dunque si rivela tutto fumo e niente rosso. In questo caso poi è un fumo urticante, un fumo lacrimogeno che non dà dando alcuna indicazione su come si vuole intervenire, rischia di essere inconcludente poi sul piano politico, sul piano dell'effettività. Allora, grazie al senatore Ichino. Come avete sentito, non è un no di principio, è un sì nel quadro però di un intervento contestuale sull'architrave del mercato del lavoro, sugli strumenti di integrazione del reddito per renderlo meno duale, per superare il dualismo. Questo senatore Ichino lo spiega con libri, articoli, proposte di legge da molti anni, quindi non è una sorpresa. E poi c'è un giudizio politico. Il giudizio politico è in contraddizione, dice il governo, con quello che diceva il mercato del lavoro. Si è svegliato in una notte, sembra quasi che miri più al farsi bloccare e dire no, per dire il nemico sta nelle opposizioni e nel sindacato. Io ricordo a chi chiedeva chiarimenti tra gli ascoltatori con gli sms sulla licenziabilità nel settore pubblico, che la vera novità in realtà qui si tratta di introdurre una sola novità, perché ci sono già strumenti per la mobilità nel settore pubblico, solo che non vengono attuati mai, cioè la disponibilità con riduzione anche dello stipendio dal 100 all'80% del settore pubblico. In realtà nel nostro paese c'è già da 10 anni, da 11 anni, solo che non viene mai applicata perché il politico non ha delle remore di fronte ai sindacati a farlo. E come ci sono strumenti che consentono la mobilità territoriale, cioè di spostare, ed è obbligatorio, cioè non è che puoi sottrarti se ti vogliono spostare. Anche questo viene attuato rarissimamente, perché i sindacati su questo si inalbora, ed è una norma che è stata ritoccata anche in questi anni. Ma la differenza è che questa volta dalla lettera si capisce che il governo vuole completare questi due strumenti che fino a questo momento, ripeto, non sono stati utilizzati, vuole completarli con il superamento della dotazione organica. A quel punto, cioè cancellando il numero di dipendenti per ufficio, a questo punto si va dritti alla mobilità, e ha aggiunto e chiarito Berlusconi stamattina anche a quel punto alla cassa integrazione, non al licenziamento e basta. Però effettivamente c'è un percorso che diventa analogo alle fattispecie previste dalla legge per la licenziabilità nel settore privato. Ora sentiamo la posizione del senatore Maurizio Castro, la replica alle osservazioni di Pietro Ichino. Che cosa si attende rispetto a un'atmosfera che si è un po' arroventata immediatamente anche con i sindacati, che erano più vicini a Confindustria e soprattutto al governo in questi anni di difficili cambio delle regole delle relazioni industriali? Prego, senatore Castro. Ma veda, se dovessi abbandonarmi ad una battuta imbronciata di primo mattino, direi che chi di articolo 8 non ferisce, di articolo 18 perisce, nel senso che l'amico e collega Pietro Ichino nasconde la verità. La verità è consistita nel fatto che dietro le incalzanti sollecitazioni dell'Europa noi avevamo trovato una soluzione, io credo, insieme intelligente e prudente, con l'articolo 8 contenuto nella manovra straordinaria d'agosto, il quale prevedeva che l'accordo tra le parti sociali potesse consentire la illimitata derogabilità di una serie di norme, fra cui l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che prevede, in caso di licenziamento ritenuto ingiustificato dal giudice, la sanzione della riconsegna forzosa al posto di lavoro e non soltanto invece quella diffusa in tutto il mondo evoluto del risarcimento economico. Siccome ci sono state dichiarazioni non so quanto pavide, non so quanto collusive, di esponenti significativi delle parti sociali, tutte, che hanno convinto l'Europa che quella strada non sarebbe stata effettivamente praticata, ci hanno ulteriormente condotti a interventi normativi di tipo classico, di tipo coattivo, se mi permette l'espressione, che agiscono sui licenziamenti economici, quali hanno, come lei esattamente coglieva, due macro aree di funzionamento. La prima è quella dei licenziamenti collettivi, oggi sono regolati da una legge del 91 che tutto sommato ha funzionato bene, anche se a procedure un po' barocche, tant'è vero che in Italia oggi chiudere uno stabilimento è consentito ad un'azienda con costi molto più limitati della media internazionale e con tempi assolutamente ragionevoli, 75 giorni. No, è questo, lo possiamo ripetere, perché garantisco, è notissimo a chi si occupa di questo, di relazioni industriali sul territorio, ma voglio dire, in Francia, per essere chiari, chiudere uno stabilimento comporta per le proprietà tempi, procedure e molto spesso impegni collaterali richiesti dalla politica, per essere fuori dai denti, locale e nazionale, molto più rilevanti che in Italia, ecco. Questo è assolutamente vero. La mia vita precedente, essendo stato a capo delle risorse umane di grandi multinazionali e avendo, ahimè, dovuto ristrutturare in tutto il mondo, le assicuro, dottore, che persino negli Stati Uniti è più costoso e più complicato di quanto non lo sia in Italia chiudere uno stabilimento e effettuare una dismissione. Però lei capisce che se facciamo questa premessa, dire che a questo punto è un punto così rilevante per la crescita. No, è l'altro quello che rileva, no, è l'altro. E per questo le dico, è l'altro. Anche se qui si può migliorare, perché ad esempio si potrebbe scambiare una maggior brevità della procedura prevedendo dei benefici economici direttamente erogati ai lavoratori che oggi non sono previsti, si potrebbe migliorare il piano sociale prevedendo l'outplacement, la ricollocazione professionale dei lavoratori in misura, si può fare con le parti sociali un buon lavoro di modernizzazione. Ma il tema vero, quello sul quale l'Europa ci sollecita più ruvidamente, è quello del fatto che in Italia nelle aziende sopra i 15 dipendenti è pressoché impossibile licenziare un lavoratore il cui licenziamento sia reso necessario da un intervento di riorganizzazione o di ristrutturazione dell'impresa, piccolo o grande che sia. Ha ragione Pietro Ichino quando denuncia la grande ipocrisia: in realtà solo il 25% dei lavoratori dipendenti privati è protetto dall'articolo 18. E su questo oggi bisogna intervenire. Noi non pensiamo, naturalmente, lo dico con grande nitidezza, a intervenire sul licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il cosiddetto licenziamento disciplinario per colpa. Interveniamo solo su quello che è regolato da una legge di 45 anni fa, la 604 del 66, e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè dovuto a ragioni organizzative dell'impresa. Su questo certamente bisognerà intervenire sostituendo la restituzione forzosa del dipendente in azienda con un robusto risarcimento economico. Tenga presente che oggi nelle aziende sotto i 15 dipendenti, dove vige la legge 108 del 90, si può illimitatamente licenziare pagando una pipa di tabacco, una cifra che va tra 2,5 e 6 mensilità, e quindi esistono anche gli spazi di equità sociale per un intervento che consenta più snellezza nella ristrutturazione per le imprese e maggior adeguatezza economica nel risarcimento per i lavoratori. Le do un numero che lei troverà senz'altro interessante. Anche là dove si applica l'articolo 18 e si va in causa, il 93% delle vertenze si conclude con una definizione economica della partita. Sì, come sì, ovvio, sì. In Italia 7,4 anni la durata media di un processo del lavoro, lei se lo immagina un'azienda che non sia la Fiat o la Zanussi, qualcuno che dopo 7 anni e mezzo ritorna nell'azienda che 7 anni e mezzo prima aveva abbandonato, tra l'altro in condizioni evidentemente di non particolare fluidità di relazione. Quindi su questo oggi siamo costretti a intervenire, perché un eccesso di ipocrisia ha impedito all'articolo 8 di trovare subito nelle parti sociali protagoniste intenzionate ad applicarlo acconciamente. Quindi oggi scontiamo il fatto che ad agosto, e qualche colpa ce l'ha anche la nostra comune amica, la Presidente Emma Marcegaglia, che non è stata nitida nella sua difesa dell'articolo 8, si è avuta in Europa l'impressione che noi non ci saremmo impegnati a sufficienza. Quanto alla pubblica amministrazione, si apre altrimenti una faglia sociale, dottor Giannino, con un pubblico che negli ultimi 10 anni ha avuto andamenti retributivi di una volta e mezza più veloci di quelli del settore privato. In un settore privato che per la prima volta anche in Italia ha licenziato per davvero, che ha una produttività inferiore a parità di condizioni organizzative di almeno 25 punti rispetto al settore privato, io credo che era inevitabile, era inesorabile arrivare a un'omologazione di regolazione contrattuale di strumenti di gestione anche nei casi di ristrutturazione. Sarà fatto con grande prudenza, tenendo conto della specificità della condizione pubblica, ma credo che questa opera di, come dire, omogeneizzazione regolatoria sia assolutamente ben voluta nel Paese. Non è un caso che il ministro Brunetta, che non è privo di qualche asperità nell'approccio, ha visto sostanzialmente realizzata la sua operazione di riforma grazie ad una sorta di alleanza tra la pubblica opinione e la sua azione riformatrice, perché il pubblico impiego è percepito anche qualche volta come una sacca di privilegio rispetto al quale la modernizzazione è necessaria. E però su questo punto noi abbiamo dovuto rilevare che poi nel meccanismo di confronto sindacale, per esempio sulla retribuzione di produttività, alla fine è passato il principio, dopo un altro confronto con i sindacati, ma sindacati sono stati uniti nel dire: beh ragazzi, voi intanto non peggiorate la condizione retributiva di nessuno, cioè nessuno viene disincentivato per valutazioni negative sulla sua produttività, ma al massimo qualcuno ci guadagna, che non era esattamente l'impostazione iniziale, però vedremo. È chiaro che nel confronto tra persone preparate e ragionevoli, due schieramenti diversi ma preparate e ragionevoli come Ichino e come Castro, come dire, il tema viene depurato di tutto il suo tasso di aspra e tagliente astiosità contrapposta. Ovviamente sappiamo che nella realtà italiana non sarà così. Eccoci tornati qui, pacchetto lavoro all'interno della lettera di intenti, molto impegnativa, fitta, un calendario fittissimo di nuove misure delineate all'Europa per fare più crescita e per non perdere il controllo della finanza pubblica italiana dal governo italiano. Il segretario del PD Bersani ha risposto in tempo reale alle dichiarazioni al TG5 di Silvio Berlusconi di 20 minuti fa, in cui si invitava l'opposizione a misurarsi in concreto sul ciò che c'è nella lettera di intenti inviata all'Europa, approvata dall'Europa. Il segretario del PD dice: appoggeremo solo le misure che condividiamo, ma quelle sul lavoro sono una provocazione. C'era il senatore Ichino che ci deve lasciare, ma prima di lasciarci voleva fare qualche controosservazione rispetto alle osservazioni del parlamentare del PDL. Sì, volevo solo osservare questo. Maurizio Castro, il collega Castro, diceva abbiamo lanciato una prima ipotesi di riforma di questa materia con l'articolo 8 del decreto di Ferragosto, che sostanzialmente rende derogabile da parte della contrattazione collettiva aziendale qualsiasi legge dello Stato, non è questo il modo in cui si può attuare una riforma della delicatezza e complicatezza di quella del mercato del lavoro, licenziamenti, ammortizzatori, sicurezza del lavoratore nel mercato. I rappresentanti sindacali, aziendali e imprenditori non hanno il know-how, non hanno i mezzi anche per una riforma di questa portata, e quindi e poi d'altra parte non si può pensare di affidare ai sindacati, pur sindacati responsabili come le confederazioni maggiori, il compito di una riforma che interessa a una constituency che non rappresentano, perché i lavoratori stabili delle protetti dall'articolo 18 delle aziende del centro nord. Qui invece abbiamo bisogno di una riforma che tenga conto degli interessi di una nuova generazione che da quella protezione è esclusa, ma il motore politico di questa riforma non può essere dato dalle confederazioni sindacali. Quindi quell'articolo 8 chiarissimo, senatore. Non era lo strumento adatto e non poteva esserlo. Chiarissimo, ora vedremo se in Parlamento la politica si saprà dare la rappresentanza dei non associati in chi sta ai tavoli e ai tavoli del lavoro. A me tocca ricordare sempre che per un programma così impegnativo, per riforme così impegnative come quella a questo punto, non solo della licenziabilità ma della strumentazione complessiva dell'architrave del mercato del lavoro, delle tutele, degli strumenti integratori del reddito, occorrono condizioni alla maggioranza diverse da quelle che abbiamo visto nelle ultime settimane. A meno di un miracolo, improvvisamente si compattano tutti, le condizioni di fibrillazione della maggioranza, a mio giudizio, non hanno a che vedere quasi mai con il merito delle questioni su cui i voti iniziano a venire meno, perché guardano al futuro, alla ricandidabilità dei parlamentari, alla loro rieleggibilità e anche a in quale schieramento andare per essere ricandidabili e rieleggibili. E credo che questo sia il problema numero uno del centrodestra, e quindi veramente Bossi e Berlusconi hanno di nuovo ancora un patto di ferro, ma che deve essere condiviso fino al suo ultimo, al loro ultimo parlamentare marginale alla Camera, dove il problema oramai è sul filo, oppure temo che questi confronti siano largamente accademici, ma auguriamoci di no. Sentiamo adesso un po' di ascoltatori come la pensano su questo, mentre il senatore Castro poi resta con noi e quindi può rispondere e commentare dopo. Cominciamo con ho visto Stefano dalla provincia di Monza Brianza, prego Stefano. Sì, buongiorno. Intanto la ringrazio per avermi chiamata. Sì, io ho una piccola, faccio velocemente, ho una piccola impresa di trasporti piccolissima e praticamente io spero di che questa benedetta legge possa passare, perché guardi, io ho avuto delle esperienze con il personale proprio bruttissimo. Mi sono trovato con delle persone assunte dopo due, con dei contratti, diciamo, col contratto a tempo, grazie a Dio, determinato, dopo due settimane di lavoro, malattie su malattie, cioè fino alla scadenza del contratto, e dopo essermi informato di chi era questa persona, ho avuto conferma dal precedente datore di lavoro che questa è una persona che andava avanti così. Cioè, praticamente io ho offerte di lavoro e ho paura a... Chiarissimo, quindi lei dice questa è una misura che in realtà serve davvero per la crescita, perché nella mia esperienza di piccolo imprenditore i limiti alla licenziabilità sono un problema. Perfetto, vediamo come la pensano gli altri. Stefano da Verona. Buongiorno, velocissimo. Allora, io ritengo che le aziende possono dimostrare come e quando vogliono, nella mia esperienza personale, che non stanno guadagnando e stanno perdendo. Cosa faranno le aziende? I cinquantenni, come sono io, i 55 anni, li lasceranno a casa, quindi quelli che hanno stipendi alti, tutti gli scatti, premi di produzione, eccetera, eccetera, e assumeranno i giovani che gli costeranno meno. E io andrò a carico della comunità fino al mio pensionamento. Quindi no, il licenziamento facile negli Stati Uniti è fallito. Gli Stati Uniti sono alla fame. Hanno portato avanti un capitalismo estremo. Vabbè, Stefano, prima di dire che gli Stati Uniti sono alla fame, terzo trimestre dato ieri del PIL di crescita tendenziale 2,5% rispetto a 1,3% precedente, io ci metterei la firma per stare alla fame così, lo dico sinceramente, ma non per difendere, dico semplicemente evitiamo le generalizzazioni. È fallito, lei pensa, il sistema americano? Magari, cioè ha enormi problemi, questo sì, ha enormi problemi di eccesso di consumi finanziati a debito, tutto il loro debito pubblico aggiuntivo, però io non so se siamo messi meglio noi. Lei sostiene un punto su cui riflettere tutti, cioè siamo sicuri che allentando le maglie della licenziabilità per motivi economici non consentiamo alle imprese di dire che ci perdono, ci rimettono e devono farlo a quel punto con troppa facilità per liberarsi manodopera? Contro obiezione. Ma se le imprese hanno detto che vogliono onorare la pensione di anzianità e tenere i dipendenti sul lavoro, anche quei dipendenti fino a 67 anni, 65 anni, che oggi vanno in pensione molti anni prima, in realtà le razionalizzazioni si sono sempre fatte con i prepensionamenti in Italia, come sta insieme la sua preoccupazione, che capisco, con queste affermazioni invece dal fronte delle imprese? Paolo da Roma, come la pensa Paolo da Roma? Allora, io ho un'impresa dal 97, ho 37 anni, ho quattro dipendenti, tutti e quattro con contratto a tempo indeterminato. I dipendenti sono una risorsa per l'azienda, ok? Prima di tutto, sono grandissime risorse, e fare un contratto a tempo indeterminato, innanzitutto queste norme per la licenziabilità non fanno altro che diminuire quello che è lo stato sociale del paese, ok? E non danno nessuna risorsa economica all'azienda. La mia è un'azienda che comunque sia si innova da sola, non abbiamo preso un fondo dallo Stato per la ricerca, perché i fondi per la ricerca vengono dati a chi ha braccia politiche, ok? Quindi i parlamentari, i nostri governanti non hanno neanche l'idea di quello che vuol dire fare impresa, ok? Berlusconi, che tutti dicono essere un grande imprenditore, non ha neanche probabilmente l'idea, perché? Perché sempre stato appoggiato politicamente, ok? Quindi io non ho avuto una risorsa, mezzo euro non ho avuto. Però non avverte Stato il bisogno di questa misura. Tenga conto che magari gli incentivi, quelli non discrezionali, ma quelli automatici, se hanno avuto un difetto contro cui ci sono battuti in questi anni, era quello che dipendevano dai pochi nanosecondi della qualità della tua banda larga per fare il click e presentare la tua domanda, e perché se stavi in una parte d'Italia dove la velocità di download e upload era molto meno rapida e non dipendeva da te, perdevi automaticamente a tavolino la possibilità di avere gli aiuti non discrezionali, quelli che non dipendono, cioè dagli amici, dai santi in paradiso, ma non hanno funzionato neanche quelli non discrezionali, proprio per colli di bottiglia tipo il click day. Sentiamo come la pensa Luigi dalla provincia di Ragusa. Luigi. Io sono un avvocato, sì, e mi occupo in un contesto naturalmente un po' diverso da quello dei distretti industriali. Quindi... Sì. E nella sua esperienza sento una linea che è una di cattiva qualità. Sì. No, Luigi, ci dobbiamo risentire perché qui la qualità non consente a chi è a casa di ascoltare. Sentiamo ancora Carlo da Roma. Pronto? Dica Carlo. Salve. Senta, rispondo al senatore del PDL. Allora, qui c'è un piccolo problemino di fondo. perché se uno non conosce la realtà oppure ha visto un altro film, farebbe bene a cambiare mestiere. Che dice, come sa, non è proprio una premessa invitante al dialogo, perché gli sta dando dell'ignorante, del cretino o il malafede. È solo per dire che in malafede, perché è malinformato, ha visto un altro film, perché perfetto. Io lavoro nel settore farmaceutico, nel quale negli ultimi 4-5 anni ci hanno rimesso la pelle una decina di migliaia di persone. Allora, quando mi si dice che in Italia è, per l'azienda è impossibile licenziare, e 15 giorni fa 200 persone circa della Merck, che è una delle più grandi aziende farmaceutiche del mondo, se ne stanno andando a casa, non sono licenziamenti, sono dimissioni, come le vogliamo chiamare, le dimissioni spintanee. Cioè, non ci prendiamo in giro, non è vero che in Italia per un'azienda è impossibile licenziare. No, ma io ho detto al contrario, io ripeto, ho detto che l'esperienza italiana, le leggi o non leggi vigenti, è stata quella di sperimentare, ma devo dire sindacati da una parte e imprese dall'altra, una modalità per le quale i ridimensionamenti di piante organiche, anche molto rilevanti per aziende che devono ristrutturare, sono da noi possibili e avvengono con meno conflittualità, con più rapidità e meno danni collaterali per le imprese di quanto non avvenga in altri paesi. In Francia, per dirne una, in Francia l'azienda è chiamata a giustificare di fronte al giudice il fatto che vada male, deve portare i documenti e deve dimostrare di fronte al giudice di non avere alternative. Questo per esempio come funziona in Francia. Dopodiché io sono dell'idea che credere di difendere i posti di lavoro dove stanno e come stanno è l'illusione di chi non conosce il mercato, perché il problema è quello di pensare a strumenti di integrazione del reddito dei lavoratori che difendano il sostegno al reddito, non il posto di lavoro dov'è e com'è, perché il posto di lavoro dov'è e com'è significa tenere in piedi posti improduttivi, ma questa ovviamente è la mia esperienza, la mia opinione. Per questo diceva, e concluda Carlo da Roma, invece io non mi riferivo a quello che ha detto lei, mi riferivo a quello che ha detto il senatore, il quale ha esordito, ha detto in Italia è praticamente più facile, non so, cavar sangue dalle rape che licenziare un dipendente. Non è assolutamente vero, chi dice questo o ha visto un altro film o è in malafede, tutto qua. Perfetto, e quindi dice Carlo, siccome è così, queste nuove proposte sono ultronee, non ce n'è bisogno. L'ultimo, rapidissimo, Massimo da Bologna, perché siamo in ritardo col traffico e dobbiamo subito procedere a quello. Massimo, rapido. Scusi, sarò rapidissimo, grazie. Niente, io volevo dire, da quando sono usciti i contratti a tempo, cioè interinali così, che io ho un contratto, sono operaio, ho contratto a tempo indeterminato, che dico, ma cos'è sta cosa di tutti questi contratti così? Contratto a tempo indeterminato con libertà di licenziamento. Io sono d'accordo anch'io. E questa è la proposta, diciamo, verso la quale chi non porva da anni ad andare. Essendo in Italia, la cosa mi fa paura, sinceramente. Perché io dice che mi licenzierebbero sempre. Esatto, io vorrei che si guardasse ai paesi scandinavi. Sì. Prendiamo anche la Svezia, dove là anche gli sindacati omettono di dire questo. C'è la libertà di licenziamento. Però c'è un supporto stato dietro. Sì, sì, c'è un supporto al reddito, non al posto di lavoro, che è una cosa diversa. Esatto, esatto. Per fare una riforma di quel tipo, Massimo, c'è bisogno appunto di confrontarsi su un diverso modello sociale, c'è poco da fare. Mentre noi siamo abituati a chiedere, difendiamo tutto com'è e dov'è, perché come facciamo a fidarci che poi domani qualcuno davvero farà offerta di lavoro aggiuntiva in un altro posto? Questa è la grande preoccupazione di un paese come il nostro. Senatore Castro, le chiedo un rapidissimo commento finale. Come ha sentito, le forbici delle opinioni sono diverse, non troppo favorevoli, ma favorevoli ci sono. Allora, molto rapidamente, è assolutamente evidente che non stiamo parlando di licenziamento facile. Se un lavoratore ritiene di essere stato ingiustificatamente licenziato dal suo datore di lavoro, potrà sempre andare dal giudice. La differenza è questa, che oggi se il giudice dichiara ingiustificato quel licenziamento, il lavoratore viene restituito dentro l'azienda che lo ha licenziato. Con quello che noi faremo, invece, sarà stabilito un robustissimo risarcimento economico. Oggi, e questo è il danno drammatico, nel momento in cui le imprese italiane devono crescere per dimensione sui mercati internazionalizzati, non lo fanno perché stanno sotto la dimensione dei 15, dove si può licenziare liberamente, dove non si paga praticamente nulla per il licenziamento anche ingiustificato, e non crescono di dimensione perché hanno paura dell'articolo 18. Con questa norma, rendendo più equo, più razionale, meglio costruito il sistema dell'equità anche fra le imprese di varia dimensione, avremo probabilmente molta meno paura di crescere, molta meno paura di investire, molta meno paura di assumere. La ringrazio, è quello che chiede l'Europa. La ringrazio, senatore Castro. Io ringrazio il senatore Ichino. D'ora in poi saremo rigorosissimi nella chiusura di tempi. Noi chiudiamo tra 10 secondi. Mio ultimo commento. Io ero e resto scettico per quello che ho visto in questi anni di questo governo. Non credo a Lazzaro che risorge dalla tomba. Il mio giudizio è auguri, speriamo, ma nel caso in cui non si faccia se non chiacchiere, meglio a casa subito, perché c'è chi la pensa come me che vuole a questo punto battersi per fare davvero le cose. Punto, a lunedì, Giulina, Giornale Radio.